sono via Montello, va, quasi. Aspetta, sono in una casa tua. E lo vai di gas, eh? Sì. Ok, in campagna magari ce l'ha più fresca. Ah, è questo indubbiamente. Stavo dicendo, questo è quel CTE. Va benissimo, Natalino, sembra amplificato. E gli ho fatto quella piccola modifica, capito? Già va bene. Ciao, ci vuole fare pure. Perché tu sei col cuore, io non ci posso fare nulla. Aspetta, domani vado a vedere i giardi, il motoci spugliatore e poi vediamo, faccio fare le fase per un vero chilometro. Ah, sì, sì. C'è un po' di stanchetta addosso, ma me la passa, però mi devo vestire ancora. Allora facciamo una cosa, a prendermi roba, vedo cosa fa, e mi passo e ti fai provare pronto, va bene? Ehi, ehi, fai lucida. Tanto in casa avevo un medicato, mi mette pantaloncini corti, una maglietta e se mi scende. Ciao, va là. Come, no? Ciao Luca, saluto. Ma non, ciao. Ciao Marco, come va? Fuggito, sarebbe. Detto che sono matti i fiori, se li poteva staccare. Quei fiori si è quasi più di 30 anni, ma per sbocciare non li vuole staccare. Vabbè, ti sigo, ciao. Vado a prepararmi, se no che Natalino mi trova pronto, si incazza. Poi già. E Carlo c'è in casa, non si può stare. Io parlo tranquillo già. E anche. Chi è c'è qui, c'è là? due, era tu, fase due. massimo per le 9:10. Tornate di più basso del solito. Yeah. time like that. Maybe not the ass or glass that you wanted to set on about it. And it makes me fun that. God, how can you die in front? Heck that. I got off my own. Not so bad, man. I'm so bad, man. I've been feeling more than a day fun. And I kind of said, I'll tell you, we had a meeting and cut the job. And I said, I've got all hungry. We had it all dried and, you know, a big ignore of him, so I would say. God, insieme, va bene. Poi dopo luogo, me la comunicate. Thank you, brother. scatto non prende rumore. La modulazione te la fa chiara, bella, capito. È come se in verticale, va. Vabbè, cioè c'è il ritmo in verticale, però forte, la radio forte. Già indovinato, già tanto ormai c'è il triste. Forse il triste. E beh, adesso. Ma se scende male adesso come posso? Adesso no. Sto provando una cosa, sicuramente non è solo di accordo quella cosa, non la usare che fai danno. Cosa per la cosa? Guarda, vediamo un po'. Facci, quello di conosci. Thank you. cavolo. Non la sai cosa? Thank you. volte abbassa i prezzi, c'è proprio chi fanno in offerta per dire i microfoni, le cose costano di me. Thank you. quando c'era prima della partita, voleva fare un BX e non ci rispondevano né a lui né a me. E questo qui ha detto, quel rischio fa un gol, capito? Ha detto, è il colpo che va a scendere, cazzo, l'ha arrivato da lui. Perfetto. E almeno lo puoi regolare. colpi dalle frequenze strane che senti rumori e cose. Quanti apparecchi c'hai tu? Cosa? Che apparecchi c'hai? Un paio ne ho così. Due solo, uno grande e uno piccolo. Ne ho uno che si chiama, questo qua, General Electronics. Sentito. Già l'ho visto già. Ma hai sentito? Adesso sono apparecchi che sono un po' più in circolazione. Ma Gianni lo conosce, ha visto. Non so, per quanto lo so io, conosce anche altri di questi apparecchi. Manda a vedere. Con quel microfono lì, col Dainese. Già. Dainese, sì. Non ho capito. Microfono, il Dainese. Sì, quello che hai visto tu. Densi, cosa dai dici? È Densi. E no, quello che tu, Densi. Si assomiglia a DM1000, si assomiglia. Anche il DM1000 è il Densi. Come mai non ha l'eco quel microfono? Perché ne hanno fatto un tipo senti e un tipo con l'eco. C'è anche su eBay, ma su microcomunicazioni se lo vedi. Quello lì è normale, già va bene. Quando l'ho comprato io ce l'ho con o senza l'eco? Ma una specie di grillo. Va bene. Bisogna meglio di un altro di più microfoni. E di quale già? Di quelli di M1000. Quanto ne vuoi trattare i microfoni, mamma? Beh, se sono di quelli CTE, li facciamo la storia e funziona bene. C'è per il cavo troppo stretto, il buco. E ricambiamo il cavo. Se non mi lascia i soldi, ti puoi fare una prolunga e ce l'hai più lungo, e sei a posto. Anche puoi fare anche così. Magari per una cerbrutta te la fai di filo aspiralatto. Aspiralatto. Ah. Antonio, segna. Aspiralatto. No, tu hai detto aspiralatto e io segno. Sì, ma io l'ho detto perché l'ha detto una persona. No, non hai capito tutto. Non si dice aspiralatto o aspiralatto? Dice aspiralatto. Neanche, è sbagliato anche così, si dice artirale. Merudino già. Cosa altro? Questo non me lo dire, no. Focaccioni. No, lo sai cos'è, che sono andato da Bugiaro, gli ho detto così. Come detto l'altra volta, aspiralato. Sì. E perché quando si è andata a comprare l'antenna cosa gli avevi detto tu? Rosmo l'aveva detto. E vabbè, sono sbagli che si fanno, dai. E mai tu già mi ha compreso però. Ehi, oddio. E diciamo che ti sei confuso nel confonderti. Sono sbagli che si fanno, vabbè, pazienza. Sì, vabbè, la pulverina, lo spray per le stazionari, preso, là. Sì, no, non mi sei mancato. Cos'è spray per le stazionari? Lo spray antistazionario, lo sai, Alessandro. No. È quello che gli avevamo fatto con spazio dell'antenna di pece. Pece? Ah no. Era dito. Non è dato di un fumatino. Ma che la polverina per le stazionarie, non lo facciamo con freddo, lo dico in realtà. Li mandavano alla GBC, infatti dava una bucina di polverine antistazionari. Ma vai a salvo, guarda, vedo a fare il pusa tranquillo. Via. Quindi avevo un gomito un bel... molta gente ci è andata però a prendere la polverina. E alla oggi mi cica, secondo me così mi arrivi. Allora, c'era un periodo a pensare che prima di Natale regalavano gli apparati ai ragazzini e cose del genere, come entravano li vendiamo a beffa. Voglia, voglia, se li raffetti siete, anzi spray, anzi stazionari, proprio, boh. No, spray, spray. Spray, spray. Che mantone del tuo spray, spray tante stazionari. Ed è una scena, senti. Eravamo il Nippolo, già. Esatto. Quelli che avevano il Nippolo. Ah, il Nippolo. E allora? Poi dopo, poi dopo. E adesso c'è da divertirsi prima, Voglia. Adesso si con l'apparecchio grande, adesso. Perché appavolo. E tu che cos'hai dato a aggiustare? Io ho un altro apparecchio. Lo sto aspettando. Lo stanno aggiustando, dove ci avevo? Ah boh, io non so, non lo so, comunque è qualcosa tipo finale, boh. C'è un partito finale? Io ne ho uno tipo il presidente, Alessà. L'ho visto, infatti quando l'ho visto ho detto quello lì è uguale a quello che conosco io. È solo che un idem è di quegli americani. E l'ho attaccato al Nippolo, quello lì. E così si rassomiglia, non lo so, con presidente, comunque si rassomiglia a quello lì, quello che ho visto a casa tua. Se sono la stessa marca, un identico, sono sempre la stessa marca. Però un vice vittore di quelli piccolini, almeno avanti un macchina. Natalino, un identico presidente sono della stessa marca, perché l'apparecchio che avevo io c'era scritto un identico presidente. E vabbè, ma mia non ha neanche l'FM, capito? È di quelli proprio originali. Che allegra, ma provatelo. E io, mi ero già attaccato in un dipolo. Mi ha fatto un dipolo per la 27. E l'ho attaccato lì, se lo vuoi te lo faccio sentire. C'è anche il palla ascolta inserito da solo, boh, chissà fa cosa. Fammelo sentire. Gianni. Oh, prova. Guarda, come te prova. Oh, bello. Ah, si sente? Benissimo. Siamo detto. Per uscire con un lipolo, prova a attaccare l'antenna vanna, difficile qui fiora. Allora, attaccare l'antenna grande, ci vuole un pezzo, aspetta un attimo. Ah, già ce l'ho, quello del rompe. Infatti rimane lì, aspetta un attimo. Quella è la qua, mi arrivi Santiago 3, è radio un po' basso, sarà 3, 4, boh. Sì, perché adesso è direttivo, mi sono preoccupato, no? Io sono solo per un sacco, esiste un attimo che lo becco, ecco qua. Esatto, a me mi arriva uno addirittura. Io sono più vicino, ma non è più in basso. Esatto. No, magari io... bisogna vedere dove è puntato, vuol dire. Per essere puntato a canale, sta arrivando bene. Esatto, no, io ho 60 anni di uno, proprio. Ho sento di radio tu. Quando va attaccando una manna. C'è una manna attaccando. Papà. Alla verticale. Che ti dà questa arrivata? Non ho mai visto, non ho mai. Non mi gioco. Guarda, adesso ha attaccato un'antenna grande. Papà, Santiago 930, radio Super 5, passa. C'è un microfono normale? Andrà bene. Telefonare, va bene, adesso me ne torno all'altro che mi curico. Dammi 8. E vedi magari con qualche microfono regolabile, riesci a sì. Lo sai cosa ci vuole per uscire, sotto alla grande. Sono difficili da provare, stanno qui tre. Ecco, microfono preamplificato. No, è un microfono serio, è amplificato. Un microfono che sono difficili da trovare, ma si pigliscono vari. Ed è come va. Va va bene Natali? Si sente, vabbè, però magari il microfono vuole cambiato di volo parecchio. Il microfono normale già, e questo è un microfono di tavola. Perché cosa ci ha messo? Il microfono da tavola adesso? No, questo è l'Indec, questo è quello piccolino che usavo in macchina. Solo che c'è attaccato l'MB più 4. Ragazzi, ma è sempre quello quell'apparato che stiamo dicendo? No, l'altro è quello tipo il President, quello che si poteva sentire poco fa, che era attaccato al dipolo. Questo è l'Intec, questo piccolino, che usavo in macchina, questo io, questo c'è accendato, insomma, vediamo là, perché c'è un concessione. Mi ha attaccato il microfono al tavolo. Lo sentendo bene. Va benissimo. E c'è anche il microfono normale su uomini di questo qui. Esatto, ma no, funziona benissimo, niente da dire. Lo più chiaro, la voce dei barenobi. Sì, e ce l'ho basso nel microfono questo. Se no pompa anche di più. Ma vediamo. A te come ti sta arrivando dopo lì? No, qua è un Santiago di sempre. Radio 5. Tu c'hai coperto la parte mia, aspettami che lo alzo, va. Così a manetta, ah, si intende il pompa, va? Sì, no, la radio è 5, sì. Allora, vabbè, visto il segnale che cambia un po' là. Da Alessandro a me ci faccio una bella differenza. E Alessandro è un audio invidiabile. Però se io alzo l'antenna, mi intendi di matracchi. Sì. Io sono un po' negativo da te. Adesso se vado da basso, guai. Mi sento fortissimo. Infatti, già lo so. Perché se io metto quel dipolo puntato verso di lui, non arrivo quando scala. Bisogna puntarlo. No, magari quando scala, ma 9,29, 9,25 sì. Quando scala arrivo se te lo punta. E che viene male perché non ho spazio per puntarlo verso di lui. Poi se mi metto la direttiva al motore, poi mi dico, sì, non ho detto che non me la mettano, perché quando cambio casa devo mettere il traliccio per forza. Ci metto sotto la direttiva e sotto la 95, la 91, perché me la compro nuova. La direttiva è buona, sa costruirmela a me. Non me la compareggio, ma la costruisco proprio. Ma c'era una persona che conosce bene che la stava prendendo, ma l'ha portata a vedere o di intanto, solo che una cosa del genere, e poi ci vuole il motore, non so dove abbia fatto pure io, mi sono trovato un po' fuori pista. Ah, no, ma ci vuole il motore, poi cazzo ti fanno problemi, mamma mia, chissà cosa manna, perché è grande, mi va a dire, ti va per 27, non è piccola, no? Tu devi pensare che c'ha 5,50 di lunghezza ogni filo, cioè, capito? Ed è molto grande. Cappagappa, non so cosa sembravano le corna, però a forma quadrata, capito? E una Iaggi era, capito? Io se voglio, ma io ho anche la Delta, mi volendo, c'ho il dipolo fatto a Delta, full size, 11 metri lungo. E non te lo guardano, tutto bravo, sì. Sì, già l'ho piatto qualche giorno a provarlo. Tanto è lì buttato. Sai cos'è? Giusto per bella vista, magari non ritratti, che se ne affutti, giusto per aprirla, capito? Una cosa bella. E l'avevo costruita e funzionava anche bene con la full size. Onda intera 11 metri e con quella è di Exilify. Se no sono bellissima per gli vabbè, quello là le corna lì sì sono le bastanti, ma sì hanno un po' lo sguardo, le gambe, ma cosa che fai qualcosa? Sì, quella raffreddante sta, quella quella lì, quella è una verità lupo. È raffreddante, ma è proprio materiale solo. Invece c'era un amico che ce l'aveva, una banda solo, era 27-220, ma era enorme. Bella, è una bella cosa. Però è delle cose megalomani, ma è lì per noi. Il solo problema, una cosa del genere si potrebbe fare in campagna, campagna mia. Sì. E poi non ho bisogno di altezza quelle, ce l'aveva in giardino un amico, quella lilla del saluto. E faceva roba di DX, poi silenziosa, guarda. Una bella antenna, per i DX va bene quella lì. Secondo me tu per andare bene lì allora cosa dovresti fare? Hai visto quel traviso che quando siamo andati a vedere la Mantova? Quello lì ti devi prendere, quello è cambiato l'antenna, o a contratti chissà. Tanto cosa ti devi cuocere? Adesso cuocerà, boh, tanto cuocerà, boh, 30, 40 euro forse. A parte quello non la regge l'antenna, perché sono calici del cazzo. Sono per impalcature, no, non per leggere antenne. E non costa 40 euro, costa un sacco di soldi. Per fare un traliccio, insomma, un po' come si deve, devi spendere qualche migliaio di euro. Non lo so, comunque, un fornetto in alto, a capire, ti serve una cosa del genere, qualche cosa del genere. Da terra, partire da terra. Ma quelli ondeggiano, quelli sono troppo piccoli i tralicci, quelli non va bene, per mettere antenne non vanno bene quelli. Beh, secondo questi tanti buoni, avresti andare in cementeggio in terra? E faccio prima comprarmi il cavo, il ferro angolare e farmelo io il traliccio, perché quelli non vanno bene per le antenne. Solo che bisogna farli tu i cazzo tutta la mala di sopra dove devi piacere il motore e tutto. Mi metterci una cosa a Bebaredda, voglio io, ma tu te l'immagini? Una cosa non grande e buttina. E la no, c'è un amico che ne ha uno di traliccio 30 metri alto. 30 metri, voglio io. Ce l'ho io ti saluto Natalia. E io me ne vado a nanna, saluto a tutti i ragazzi, a domani, magari ci sentiamo domani, dai, e buonanotte a tutti. E capo, ciao, adesso, qualche giorno ti portiamo io e Gianni a vedere quel traliccio. Cava, cava, dai, uno di questi giorni, ci avventuriamo a vedere la cosa. Però da sussi. Buonanotte adesso, dai, ci sentiamo domani, dai, che cucci, dai. Ieri gli avevo quelli, la domani là, e ci si blocco, se no non gli si passano i loro. Buonanotte raga. Buonanotte, buonanotte. Beh, Natali, lui o mi sa che è giunta l'ora. Andate, andate, che voi dovete andare a lavorare. Che io, cazzo, invece, vabbè, domani di buca, devo pensare a quel diario della macchina, andare di buca, che mi è giù gravato. E sono senza il grembialino da davanti. Ah, già, è quello che l'ha aggiustato. Vabbè dai, buonanotte Natale. Buonanotte anche a Gianni, che sta ancora all'ascolto. A bombo di ciao. Gianni, tu ho addormentato, sì, ci sei. Ragazzi, conosce. Va bene, buonanotte a tutti, quello che per me. Alle prossime, salutoni a tutti gli ascoltoni, cava cava, Alfa 1, 27075, QRT SK. Buonanotte Natale, buonanotte, ciao Natale, ciao Natale, ciao Natale, ciao Natale.